Sezione ventisettesima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto ventisettesimo. Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo cominciò gloria tutto il Paradiso. Sì che m'inebriava al dolce canto, ciò ch'io vedeva mi sembrava un riso dell'universo, perché mia ebbrezza entrava per l'udire e per lo viso. Oh gioia, oh ineffabile allegrezza, oh vita intera d'amore e di pace, oh senza brama sicura ricchezza. Dinanzi agli occhi miei le quattro facce stavano accese, e quella che pria venne incominciò a farsi più vivace, e tal nella sembianza sua divenne qual diverrebbe Giove s'egli e Marte fossero augelli e cambiassersi penne. La provvedenza che qui vi comparte vice d'ufficio nel beato coro silenzio posto avea da ogni parte. Quand'io udì, se io mi trascoloro, non ti maravigliar, che, dicend'io, vedrai trascolorar tutti costoro. Quegli ch'usurpa in terra il luogo mio che vaca nella presenza del figliuol di Dio, fatto ha del cimiterio mio cloaca del sangue e della puzza, onde il perverso che cadde di quassù laggiù si placa. Di quel color che per lo sole avverso nube dipinge da sera e da mane, vid'io allora tutto il ciel cosperso. E come donna onesta che permane di sé sicura e per l'altrui fallanza pur ascoltando timida si fane, così Beatrice trasmutò sembianza, e tale eclissi credo che in ciel fue quando patì la suprema possanza. Poi procedetter le parole sue con voce da sé tanto trasmutata che la sembianza non si mutò più. Non fu la sposa di Cristo allevata del sangue mio di lin di quel di Cleto per essere ad acquisto d'oro usata, ma per acquisto desto viver lieto e Sisto e Pio e Calisto ed Urbano sparser lo sangue dopo molto fleto. Non fu nostra intenzion ch'a destra mano de nostri successor parte sedesse parte dall'altra del popol cristiano, né che le chiavi che mi fur concesse divenisser segnacolo in vessillo che contro i battezzati combattesse, né ch'io fossi figura di sigillo a privilegi venduti e mendaci, ond'io sovente arrosso e disfavillo. In veste di pastor, lupi rapaci si veggion di quassù per tutti i paschi, o difesa di Dio, perché pur giaci? Del sangue nostro ca orsini e guaschi s'apparecchian di bere, o buon principio, a che vil fine convien che tu caschi? Ma l'alta provvidenza che con scipio difese Roma e gloria del mondo soccorrà tosto sì com'io concipio. E tu, figliuol, che per lo mortal pondo ancor giù tornerai, apri la bocca e non nasconder quel ch'io non nascondo. Sì come di vapor gelati fiocca in giuso l'aere nostro quando il corno della capra del ciel col sol si tocca, in su vid'io così l'etere adorno farsi e fioccar di vapor trionfanti che fatto avean con noi quivi soggiorno. Lo viso mio seguiva i suoi sembianti e seguì fin che il mezzo per lo molto gli tolse il trapassar del più avanti. Onde la donna che mi vide assolto dell'attendere in su mi disse: «Adì mal viso, e guarda come tu sei volto. D'allora ch'io avea guardato prima, io vidi mosso me per tutto l'arco, che fa dal mezzo al fine il primo clima, sì ch'io vedea di là da Gade il varco folle d'Ulisse, e di qua presso il lito del qual si fece Europa dolce carco. E più mi fora discoverto il sito di questa aiuola, ma il sol procedea sotto i miei piedi un segno e più partito. La mente innamorata che donnea con la mia donna sempre, di ridurre ad essa gli occhi più che mai ardea. E se natura o arte fe pasture da pigliar occhi per aver la mente, in carne umana o nelle sue pinture, tutte adunate parrebber niente ver lo piacer divin che mi rifulse quando mi volsi al suo viso ridente. E la virtù che lo sguardo m'indulse del bel nido di Leda mi divelse e nel ciel velocissimo m'impulse. Le parti sue vivissime ed eccelse sì uniformi son ch'io non so dire qual Beatrice per luogo mi scelse, ma ella che vedeva il mio disire incominciò ridendo tanto lieta che Dio parea nel suo viso gioire. La natura del moto che quieta il mezzo e tutto l'altro intorno muove quinci comincia come da sua meta, e questo cielo non ha altro dove che la mente divina, in che s'accende l'amor che il volge e la virtù che i piove. Luce d'amor d'un cerchio lui comprende sì come questo gli altri, e quel precinto colui che il cinge solamente intende. Non è suo moto per altro distinto, ma gli altri son misurati da questo sì come 10 da mezzo e da quinto. E come il tempo tenga in cotal testo le sue radici e negli altri le fronde, o mai a te potesser manifesto. O Cupidigia, che i mortali affonde sì sotto te che nessuno ha podere di ritrar gli occhi fuor delle tue onde. Ben fiorisce negli uomini il volere, ma la pioggia continua converte in bozzacchioni le susine vere. Fede ed innocenzia son reperte solo nei pargoletti, poi ciascuna pria fugge che le guance sian coperte. Tale, balbuziendo ancor digiuna, che poi divora con la lingua sciolta qualunque cibo per qualunque luna. E tal, balbuziendo ama ed ascolta la madre sua, che con loquela intera disia poi di vederla sepolta. Così si fa la pelle bianca a nera nel primo aspetto della bella figlia di quei ch'apporta mane e lascia sera. Tu, perché non ti faci maraviglia, pensa che in terra non è chi governi, onde si svia l'umana famiglia. Ma pria che gennaio tutto sverni per la centesma che laggiù negletta, ruggeran sì questi cerchi superni che la fortuna che tanto s'aspetta le poppe volgerà u son le prore, sì che la classe correrà diretta e vero frutto verrà dopo il fiore. Fine del canto 27.